Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Universal Music, Milano. Da un piccolo paese sul Garda arriva in cima alla classifica viral di Spotify con Notti in Bianco. Tra rap e punk, stralunato e divertente, ha solo 17 anni. Blanco perché in realtà ero in studio. Diciamo che in particolare non volevo avere un nome. Cioè io mi volevo chiamare solo Riccardo, per dirti, detto mi chiamo solo così e faccio uscire musica e basta. E vieni da un posto un po' particolare, da una metropoli, mica tanto. No, vivo in un paese di 3.000 persone, cioè proprio in mezzo al nulla. Però mi ha aiutato in realtà questa cosa su certi aspetti. Anche perché ti puoi sfogare, cioè alla fine se vuoi andare a urlare in un campo puoi farlo, cioè non c'è nessuno che ti ferma e comunque è tutto molto più tranquillo e boh, mi dà più serenità in quello che faccio. Ma come si fa a uscire con la propria musica da un posto così piccolo e come hai detto tu in mezzo al niente? Hai messo le tue cose online, mi racconti un po'? Sì, io avevo messo un po' di brani online, tipo 4 brani. Poi uno di questi era andato tra virgolette bene e niente, poi da lì si è sviluppato un po' tutto il percorso, mi ha portato a conoscere gente, cose, mi ha portato qua a Milano che è una città grande. Ho fatto un po' di sessioni, ho conosciuto Michelangelo, quello che adesso è il mio produttore, e abbiamo iniziato a fare il percorso che ho iniziato oggi. Notti in bianco, sta tutto sfasato, ancora qua in camera a scrivere fino all'alba. Notti in bianco, sembro uno schizzato, e mando tutto a puttane, poi buco la notte che resta tutta da da da da da. Ho strappato mille pagine, baby, per te scrivere le tue lacrime. Testi particolarmente intensi, tosti. Io a un certo punto mi sono detta, questo è anche un po' vietato ai minori di 18. Tu non li hai neanche 18. Senti, mi racconti un po'. Ma in realtà a livello di linguaggio, penso infine sia la lingua dei giovani, cioè nel senso... Se devo dire scopare non dico amore, cioè non ho detto oggi ho fatto l'amore con questo ragazzo, tra virgolette, mi sa un po' di 1800 però, cioè non mi nascondo dietro niente, questo sono io parlo così e basta. E sì, poi diciamo che magari nei miei coetanei il linguaggio è quello più o meno. Io ho letto, non so se è vero, che tu in realtà cioè le hai scritte per farti notare da una tipa, è vero? Sì, i primi testi sì, li avevo scritti per farmi notare da una ragazza e poi è finito il tutto con appunto la parola del ritornello in bianco e poi basta, cioè nel senso dopo ho iniziato anche a appassionarmi alla musica perché io infine non avevo iniziato perché mi piaceva in particolare cantare, cose così, ho iniziato proprio perché volevo tra virgolette fare colpo e poi no, niente, invece a farlo così per... Solo per, tra virgolette, gioco mi sono appassionato e basta. Ora, un sacco di artisti adesso si vestono, talmente tanto che si travestono. Tu diciamo che hai scelto la via opposta, perché non sei molto vestito nella prima immagine che ho visto di te. Cioè, nudo e crudo. Sì, sì. Ma anche come... Cioè, infine quello che sono, anche in casa giro sempre nudo con i miei genitori. Infatti mi dicono di coprirmi così, ma poi anche i vicini lo sanno, ormai è abitudine. Ti toccherà vestirti prima o poi, non... Ti toccherà. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Blanco. Ancora un saluto da Marta Cagnola.